Capitolo 129. La settima fatica, il toro cretese. Euristeo ordinò a Eracle, come sua settima fatica, di catturare il toro di Creta, ma ancora si discute se si trattava del toro inviato da Zeus e che trasportò Europa fino a Creta, oppure dell'altro che Minosse si rifiutò di sacrificare a Posidone e che generò il Minotauro in Pasifae. A quel tempo devastava la terra cretese, specialmente la regione bagnata dal fiume Tetride, sradicando le piante e abbattendo i muri degli orti. Quando Eracle veleggiò verso Creta, Minosse gli offrì ogni aiuto in suo potere, ma Eracle preferì catturare il toro da solo, benché l'animale sputasse fiamme dalle nari. Dopo un'aspra lotta, Eracle riportò il toro a Micene, dove Euristeo, dedicandolo a Era, lo rimise in libertà. Era tuttavia, considerando odioso un dono che le ricordava la gloria di Eracle, guidò il toro dapprima a Sparta e poi di nuovo attraverso l'Arcadia e oltre l'Istmo sino a Maratona in Attica, donde poi Teseo lo trascinò ad Atene per sacrificarlo ad Atena. Tuttavia molti ancora negano l'identità tra il toro di Creta e quello di Maratona. Il combattimento con un toro o con un uomo travestito da toro, una delle prove rituali imposte a un candidato al trono, fa parte anche della leggenda di Teseo e del Minotauro e di Giasone e dei tori di Eete che sputavano fuoco dalle nari. Quando l'immortalità implicita nella sacra incoronazione fu poi offerta a tutti gli iniziati dei misteri dionisiaci, la cattura del toro che veniva dedicato a Dioniso o Plutodote, che dà ricchezza, divenne un rito consueto sia in Arcadia sia in Lidia, dove Dioniso aveva l'appellativo di Zeus. Il toro era appunto la sua principale epifania, ma egli si presentava anche sotto forma di leone o di serpente. Il contatto con le corna del toro permetteva al re sacro di fertilizzare la terra in nome della dea Luna, facendo scendere le piogge. La spiegazione magica di questo fatto è che il muggito del toro avrebbe provocato i temporali e che pertanto l'uso dei rombi aveva lo scopo di costringerli a manifestarsi. Le torce agitate per simulare i lampi fecero nascere la leggenda che i tori sputassero fuoco dalle nari. Dioniso viene chiamato Plutodote, che dà ricchezza, dalla sua cornucopia, strappata dal capo di un toro che in origine era destinata a operazioni magiche sulle acque. Il culto di Dioniso deriva da quello del cretese Zagreo, e tra le epifanie di Zagreo ricordiamo il leone, il serpente cornuto, il toro e Crono Pluvio.